Al microfono di Radio Wombat abbiamo Ivan Ferroviere della CUB sulla questione del primo maggio, festa dei lavoratori, che quest'anno cade all'interno del periodo che vede il divieto di scendere in piazza, il divieto di assembramento, ma mai come oggi i temi del lavoro sono presenti e importanti in una situazione che vede i diritti dei lavoratori fortemente negati e a rischio. Quindi l'intenzione per il primo maggio qual è? Allora, innanzitutto ci tenevo a dire che noi da alcuni anni, come sindacati di base di Firenze e una serie di organizzazioni e associazioni che da via sono aggregate a questo percorso, stiamo cercando di rilanciare il primo maggio in questa città, perché per alcuni anni era stata un po' abbandonata come data, e quindi ormai da 5 anni l'abbiamo riportato in piazza con numeri di iscritti, qualche centinaia di persone, che non sono tante per una città come Firenze, ma rispetto all'ambiente che c'era prima è un segno importante, e siamo comunque una delle poche città che sta cercando di rilanciare questa data che è fortemente simbolica per lotta dei diritti dei lavoratori. E quest'anno tra l'altro eravamo partiti molto prima, perché già da dicembre abbiamo iniziato a fare le riunioni e c'era la sensazione e la volontà di organizzare qualcosa di molto più importante e di più grosso. Eppure siamo in questa situazione, e chiaramente non ha tolto soltanto la data del primo maggio, ma ha colpito una serie di iniziative importanti. La prossima è quella del 25 aprile, ma già era saltata quella importantissima dell'8 marzo, come le manifestazioni degli studenti per il Fridays for Future, quindi tutta una serie di mobilitazioni che effettivamente in questa fase sono, diciamo, un po' in stand-by. Sul lavoro in particolare la situazione è particolarmente gravosa, e questa emergenza l'ha anche peggiorata, non soltanto perché è apparso in maniera chiara quanto sia forte in questo sistema lo strapotere del capitale, del padronato rispetto ai diritti dei lavoratori, e l'abbiamo visto perché si è tardato tantissimo ad applicare le misure restrittive sulle attività produttive, tra l'altro solo parziali, e come anche sulla circolazione delle persone e delle merci, e questo ha causato tantissime vittime, ma l'abbiamo visto anche su come la privatizzazione del settore sanitario ha influito sul numero enorme di vittime e su come le carenze delle protezioni dei lavoratori hanno colpito duramente, soprattutto nel sistema sanitario, dove ci sono centinaia di morti fra lavoratori che tra l'altro sono in lotta da tanti anni, non mi riferisco solo ai medici ma anche ai infermieri e anche a tanti lavoratori degli appalti, spesso stranieri a basso reddito, che da tanti anni lottano per condizioni di lavoro migliori e sono sempre stati ignorati. Oggi, guarda caso, sono considerati eroi, però sarebbe bene che ci si ricordasse che sono eroi, come tra l'altro tutti i lavoratori in generale, e anche e soprattutto dopo questa emergenza. Quali sono le intenzioni? Nella fase attuale abbiamo deciso, soprattutto in una situazione in cui c'è ancora un altissimo numero di contagi e di morti, di rispettare le regole per la sicurezza, questo quantomeno fino a che queste regole ci sono, perché adesso quello che ci viene prospettato è che secondo noi in maniera anche un po' approssimativa dal 4 maggio sarà sostanzialmente riaperte tutte le attività produttive, e parallelamente però si mantiene in vigore, almeno questo sembra, poi vedremo stasera cosa ci diranno, tutte quelle che sono delle restrizioni per le libertà personali e in particolare sulla libertà di esprimere il proprio dissenso e quindi di manifestare e di scioperare, perché attualmente anche gli scioperi sono stati bloccati in molte categorie, cosa gravissima, anche considerando che non si può protestare per maggiore sicurezza sul lavoro. Quindi la cosa importante per noi rispetto al primo maggio, ma rispetto in generale alla mobilitazione che portiamo avanti, e far capire che ci siamo, quindi mantenere in vita e in essere il gruppo che è molto ampio, quest'anno in particolare, di sindacati e di gruppi politici e sociali che abbiamo messo su, cercare di far arrivare alle persone il messaggio che è necessario mobilitarci, e in prospettiva con l'esplosione della crisi sociale lo sarà ancora maggiormente, per cercare di guadagnare di conquistare diritti e tutele, e quindi adesso aspettiamo per vedere quali saranno le nuove misure, ma sicuramente noi abbiamo intenzione nei prossimi mesi di tornare anche nelle piazze. Questo se ci negheranno il permesso di farlo, stabiliremo da noi le misure necessarie a tutelare la nostra sicurezza, che sia il distanziamento, vediamo quali sono, ma certamente non saremo, come dire, buoni e muti a produrre come ci viene imposto e d'altro lato senza poterci esprimere su quello che riteniamo opportuno. Ecco, su questa situazione qual è stata secondo te il ruolo che hanno svolto i sindacati di base e anche purtroppo immagino che non sia una novità quello svolto invece dei sindacati confederali? I sindacati di base, ora, al di là diciamo che ci sono state subito dopo l'inizio, allora intanto in una prima fase per esempio a noi come ferrovieri ci è stato bloccato la possibilità di scioperare, questo già dall'inizio, cosa che abbiamo accettato perché rispetto a una situazione sanitaria capiamo anche soprattutto in una prima fase emergenziale era necessario. Al tempo stesso però bisogna stare molto attenti a vigilare che questa tendenza, visto che le regole sullo sciopero in Italia sono particolarmente restrittive, non vada ad accanirsi, non vada a prolungarsi, perché sarebbe molto grave, non potremmo tollerarlo. Detto questo, soprattutto in settori considerati tra virgolette non essenziali, dove non ci sono, dove non c'è la legge 146 che invece c'è sui trasporti, sulla sanità, sulla scuola, sulle telecomunicazioni, che è molto restrittiva, sull'industria per esempio sono subito scoppiate una serie di scioperi perché i lavoratori non si sentivano sicuri nelle fabbriche, questo prima che venissero applicate il blocco di alcune attività produttive, tra l'altro molto parziale, e quindi in tutta una serie di fabbriche, soprattutto del nord, le mobilitazioni ci sono state, e questo devo dire in maniera trasversale, non soltanto da parte dei sindacati di base, anche da alcune realtà dei sindacati confederali, questo la mia opinione la dico in maniera molto chiara, soprattutto i vertici dei sindacati confederali ormai fanno, come dire, fanno parte del sistema, esprimano gli amministratori delegati, i vertici delle grandi aziende, quindi su di loro non ho dubbi che concordino in maniera anche più ampia di quanto ci fanno sapere le misure che poi il governo applica, però questo non significa a livello di base poi anche all'interno di quei sindacati ci siano realtà che invece le lotte le fanno, gli scioperi ci sono stati, quindi soprattutto in questo momento chiaramente l'attenzione dei lavoratori è per la sicurezza e questo succederà anche nelle prossime fasi, quindi se adesso con la ripresa, con la fine del lockdown non ci sentiremo sicuri, dovunque vedremo che ci sono situazioni di pericolo, se faremo denunce faremo scioperi, questo sicuramente. Ecco, proprio riguardo alla legge 146, al divieto di sciopero nei servizi essenziali, pensate sia il caso di rivederla e se sì, anche con quali metodi, attraverso un conflitto o attraverso compromessi? Allora, la legge 146 risale al 1990, è una fra le più restrittive che ci siano in Europa e in sostanza rende difficilissima già oggi la possibilità di scioperare, di fare scioperi efficaci, soprattutto nei trasporti, ma poi in tutti questi settori. Certamente noi ci battiamo da anni per cercare di avere una maggiore libertà di sciopero, perché alla fine è l'ultima arma, la più efficace che il lavoratore è rimasta, e quindi è l'unica con la quale si può cambiare le condizioni di lavoro e le condizioni dei servizi che vengono offerti alle persone, però purtroppo questa non è la tendenza, anzi negli anni abbiamo visto una serie di attacchi anche al diritto di sciopero nonostante le attuali restrizioni e questo purtroppo devo dire ancora, secondo me su questo c'è stato anche una poca attenzione quantomeno da parte dei sindacati maggioritari confederali che concordano queste cose con il governo e quindi in questo momento tutta la nostra attenzione è soprattutto sul difendere almeno quella libertà di sciopero che abbiamo oggi, che è poca, poi certamente in prospettiva se riusciamo a migliorarla non sarebbe poco, però ecco la nostra paura è che invece si vada verso un ulteriore peggioramento. Avete diramato un comunicato dove tra l'altro c'è la possibilità di aderire, dove lo troviamo e eventualmente… Allora, comunicati per quanto riguarda il 1° maggio, ne avevamo già fatto circolare uno a metà del percorso, adesso ne stiamo preparando un altro dove chiaramente prendiamo atto dell'impossibilità fisica di realizzare il progetto su cui stavamo lavorando, rilanciando però una serie di temi, soprattutto quelli del lavoro, della sicurezza del lavoro, ma anche di tutta una serie di battaglie che in città, sull'ambiente, sulla casa, contro la guerra, sulla sanità, ecco, sulla salute in particolare, che in città in questi anni abbiamo seguito come sindacati di base e che per noi nel primo maggio potevano trovare una sintesi, infatti erano tante associazioni che avevano aderito. Quindi stiamo preparando questo comunicato, stiamo raccogliendo le adesioni in maniera abbastanza interna, sinceramente ancora non l'abbiamo reso pubblico e pensiamo di renderlo pubblico dal 26, perché in questo momento siamo anche tutti impegnati a fare propaganda sul 25 aprile, che è un'altra data, come un'ora alla resistenza su cui teniamo molto, quindi dal 26 sarà pubblico e sono sicuramente già tante le organizzazioni che aderiranno. Un'ultima domanda è proprio riguardo ai sindacati di base, ne escono rafforzati da questa situazione secondo te, anche proprio per quanto riguarda la partecipazione attiva dei lavoratori, quindi ci sono nuovi persone coinvolte, nuovi tesserati? Questo è difficile dirlo adesso, nel senso che quello che ci interessa, che mi interessa in particolare, è che venga rafforzata soprattutto l'idea che in questo sistema c'è qualcosa che non funziona. Questo è il messaggio che oggi forse più che ieri le persone, i cittadini che usufruiscono dei servizi della salute, della sanità in particolare, ma insomma le persone che ora nei prossimi mesi purtroppo rischieranno di perdere il lavoro o che soffriranno la situazione economica, ecco, c'è la possibilità oggi di una coscienza molto più ampia del fatto che c'è qualcosa che non va nel sistema economico, che poi è quello che ci sfrutta tutti i giorni a livello lavorativo. Quindi quello che mi interessa è la difesa di una mobilitazione. Se questa sapranno farla e gestirla, almeno da un punto di vista lavorativo, i sindacati di base, speriamo di sì. Ecco, il problema dei sindacati di base è che oggi sono molto divisi fra loro, spesso cercano anche di gareggiare, cioè fra chi deve primeggiare, questo non va più bene. Ecco, in questa situazione c'è bisogno di coordinarsi, di costruire percorsi unitari, ben venga anche settori oggi, tra virgolette, non di base, se vogliono partecipare per me a questo percorso, insomma. Bene, allora ci terremo aggiornati, rimandiamo all'evento in occasione della festa del lavoro, che poi sarà rimandato, e quindi anche da parte di Radio Wombat ci sarà la possibilità e la volontà di seguire questo percorso e anche di aiutare. Grazie a Ivan. Benissimo, grazie a voi, a presto.